Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le bonifiche nelle zone del Carso devastate dagli incendi, controlli provvidenziali a San Michele, spento sul nascere, un nuovo focolaio. La politica accelera verso la scadenza di settembre, ma ci sono punti di domanda sul piano di ripresa e resilienza che in regione dovrebbe portare risorse per 1,5 miliardi. Covid, nuovi contagi sotto quota 800, il tasso di positività al 16%, in ulteriore calo l'incidenza settimanale. Si nascondeva a Lignano un latitante turco condannato a 15 anni per furti con sistemi informatici, rintracciato in un albergo. Rigolato protesta per la strada forestale che dovrebbe diventare camionabile, i timori della comunità alle prese con l'incremento del traffico pesante. Spettacoli, serata di grande musica a Grado, i Subsonica, a Trieste in concerto Mario Biondi, a Udine Paolo Fresu in Piazza Libertà con il trio Sans. Sport, canottaggio e mondiali juniores, la triestina Benedetta Pahor conquista l'oro nel 4 senza, bronzo per il latisanese Marco Dri nel doppio, intervista con il tecnico azzurro Spartaco Barbo. Calcio, Udinese in vista del primo impegno ufficiale venerdì in Coppa Italia, Pordenone in arrivo l'attaccante Palombi, triestina parla il direttore sportivo Romairone. Per 18 km a nuoto nelle acque del Golfo, prova di resistenza nel nome della tutela delle riserve naturali, a Pordenone 250 partecipanti alla Gran Fondo di ciclismo. Lunedì 1 agosto, sono le 7, quasi 20 minuti, buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrea Saule. Agosto che si apre all'insegna del bel tempo, abbiamo cielo in prevalenza sereno sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate stamattina alle 6, a Trieste 23 gradi, mare calmo con temperatura dell'acqua 26 gradi e 5 decimi, a Gorizia Udine 18 gradi e mezzo, a Pordenone 20 e mezzo. Nell'area montana abbiamo a Tolmezzo 18 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 12, a Sappada 10, a Forni di Sopra 14 e mezzo, sul Piancavallo 12, sul Lussari e sullo Zoncolan 14 gradi e 5 decimi, a Grado 24, a Lignano 25 e mezzo, con temperatura del mare 27 gradi e 5 decimi. Queste invece le previsioni a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. In mattinata avremo cielo sereno, dal pomeriggio sui monti variabilità con la possibilità di qualche rovescio e forse qualche temporale, più probabile nella notte verso martedì. Su pianura e costa il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso con venti di brezza sulla costa, mentre in pianura farà caldo. Da mercoledì tornerà l'anticiclone africano e farà molto caldo. Sul Carso non sono ancora cessati i sopralluoghi e le bonifiche nelle aree devastate dagli incendi, un lavoro delicato e fondamentale che deve essere condotto dagli esperti. Provvidenziale ieri l'intervento immediato su un nuovo focolaio. Sembrava una domenica tranquilla a San Michele del Carso, ma le insidie sono dietro l'angolo. Attorno all'ora di pranzo scatta l'allarme. Alimentate da vento e sole, nuove fiamme innescate dal terreno rovente minacciano una casa, come già accaduto giovedì. Subito sul posto un elicottero, da terra si fa il possibile. Lo spegnimento ha successo, il fuoco è circoscritto. Il proprietario dell'abitazione, Alessio Zambon, può tirare un sospiro di sollievo. Ha avuto paura più oggi o l'altro giorno? Diciamo l'altro giorno, però oggi avevamo le fiamme ancora più vicino. Pronti a intervenire, vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile che hanno salvato anche delle arnie. Paolo Marotto è un volontario di San Dorligo della Valle. Era tutto sterpaglia, è tutto incolto e molto, è un sottobosco molto fisso. E se non riuscivamo a prenderlo subito, entrava nel bosco, non lo fermavamo più. Ci vorranno ancora giorni di lavoro per mettere in sicurezza il territorio. Accompagniamo la squadra in Muggia della Protezione Civile durante la bonifica di un'area non lontana dal paese. I volontari si addentrano nel bosco con il tubo dell'acqua ad alta pressione. Il capo squadra Piero Giacomelli. Stiamo puntando alla radice di questo pino per mettere a nudo un po' le radici e i sassi che hanno una temperatura notevole. Coordinano le operazioni forestali per i quali l'incendio è da considerarsi ancora attivo, come chiarisce Massimo Stroppa, capo dell'ispettorato del corpo. Anche se non c'è fuoco, quindi per noi non è spento e lo sarà dopo molto tempo, o con la prima pioggia, che non è venuta purtroppo in questi ultimi giorni, o dopo che avremo percorso l'intero perimetro e controllato tutte le ceppaie e le zone dove il fuoco potrebbe ripartire. Ed è lungo il perimetro dell'incendio del Brestovez, circa 9 km per un'area di quasi 300 ettari. Per ragioni geologiche poi la bonifica ha tempi lunghi sul Carso, dice Roberto Valenti del Corpo Forestale Regionale. dove attraverso le radici degli alberi il fuoco penetra nel sottosuolo, cova anche per giornate, anche dopo una pioggia anche abbastanza intensa, e dopo nel tempo può riemergere in funzione del vento, ripartire. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. L'andamento dell'epidemia: sono 789 nuovi casi di coronavirus registrati in regione su circa 4.800 test effettuati. Il tasso di positività è del 16%, mentre l'incidenza settimanale è ancora in calo con 809 casi ogni 100.000 abitanti. 5 decessi di ieri, stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva a 7, mentre calano di 3 unità i ricoverati con Covid negli altri reparti, sono 288. Ancora notizie di cronaca nera: morto in montagna durante un'escursione un turista austriaco che si trovava sopra Tolmezzo, sul monte Dobis. L'uomo è stato colpito da un infarto mentre si trovava con 3 compagni su un sentiero di media difficoltà. È spirato poco prima dell'arrivo dei soccorsi e dell'elicottero. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 49 anni. Era specializzato in furti attraverso sistemi informatici e nella falsificazione di documenti, reati che nel 2006 gli erano valsi una condanna a 15 anni di reclusione. Da allora era latitante ed era inseguito da un mandato di arresto internazionale. La sua lunga fuga si è conclusa a Lignano, dove l'hanno scovato gli uomini della polizia. Si tratta di un turco di 38 anni, residente in Germania, che ora si trova nel carcere di Udine in attesa dell'estradizione. I temi dell'economia si intrecciano a quelli della politica a proposito del piano nazionale di ripresa e resilienza che la campagna elettorale minaccia di rallentare nell'erogazione delle risorse. Per il Friuli Venezia Giulia ammontano a 1,5 miliardi. Sulle pagine dei giornali sono già rimbalzati i punti di domanda dei prossimi mesi in Italia, che non riguardano solo il prossimo governo, ma anche le sorti del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché una diversa composizione governativa, sulla carta, potrebbe non essere in grado di rispettare le scadenze stringenti legate all'erogazione. Un'operazione che in regione, nella sua interezza, comporta l'arrivo di 1,5 miliardi di euro. La preoccupazione tocca solo di straforo i progetti per i porti di Trieste e Monfalcone, perché i 416 milioni, quasi tutti già stanziati, come sottolinea il presidente dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino, sono nella maggior parte di provenienza del fondo complementare del governo e quindi svincolati dalla rendicontazione europea. Qui rientrano opere come il recupero della stazione ferroviaria, oltre al potenziamento del Molo Settimo e lo sviluppo del punto franco nuovo, mentre i progetti di solo riferimento europeo sono residuali. Il rischio vero, secondo l'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, sta invece nel rifinanziamento necessario a causa dei recenti aumenti dei prezzi. Le cifre già previste non consentono infatti di concretizzare opere ormai più costose di quanto calcolato in partenza e che difficilmente vedranno l'adesione a bandi con importi ora al di fuori del mercato. Tra queste opere rientrano la ciclovia Trieste-Lignano-Venezia, l'ingresso ferroviario di Udine e il porto vecchio di Trieste, oltre agli efficientamenti sismici delle scuole. Qui, conclude Zilli, è necessaria una risposta strutturale adeguata. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Stefano Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei No Green Pass, sarà candidato alle prossime elezioni politiche nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone. Puzzer punta ad essere eletto deputato, sarà capolista per la Camera in Emilia-Romagna. Correranno per il Parlamento anche Andrea Donaggio e Franco Zonta, gli altri due fondatori del comitato La Gente Come Noi, il primo in Veneto, l'altro in Regione. A Rigolato diventa un caso politico la realizzazione di una camionabile ad alta quota, mentre si attende che una proposta di modifica del progetto venga presentata alla comunità montana. C'è stata un'iniziativa di protesta alla quale hanno partecipato numerosi residenti già esasperati dall'incremento del traffico pesante. Rigolato di lotta per una temuta autostrada ad alta quota e Rigolato d'attesa per una variante che non arriva mai. 100 persone hanno partecipato assieme al sindaco a una camminata per dire no alla realizzazione di una forestale a 1600 metri di quota, da Malga Tuglia al rifugio Chiampizzulon. Sostituirebbe un sentiero CAI di 50 cm con una camionabile larga in alcuni punti 10 metri, non solamente sovradimensionata e dannosa per un ambiente fiabesco, a detta degli organizzatori, ma anche antieconomica. A parte i costi iniziali, c'è poi un problema anche di manutenzione, perché c'è un continuo scoscendimento di massi, quindi crolli, e quindi inattuabile dal punto di vista economico e poi, come dicevamo, dal punto di vista ambientale. La camionabile si innesterebbe ad un tracciato ad anello che unisce Sappada alla Val Pesarina. I comuni vedono nell'infrastruttura un'opportunità per ridare slancio alla vendita del legno. In questo specifico tratto, però, ci sarebbe ben poco da prelevare. Il recupero è minimale, in quanto nei boschi di protezione meno si taglia meno è. Vengono fatti solo tagli in funzione dell'ecosistema, affinché viva e si riproduca da sé, ma non per produrre legname, insomma, no? Intanto è regolato, via di passaggio strategica, del bypass per convogliare il traffico di mezzi pesanti fuori dal paese, ancora neanche l'ombra. Da Roma sono arrivati oltre 9 milioni, ne serviranno forse altrettanti, ma uno stallo burocratico sugli espropri sta bloccando l'avvio dei lavori. Sono favorevolissimo alla variante. Ancora dagli anni 60 che si parlava di questa variante. E tutti i camion che grattano la mia abitazione. Ci sono tanti camion che fanno tremare i vetri. Io ho contato in un giorno 100 camion. Ingorghi, marci indietro, avanti. Questo è un paese turistico, la gente ha bisogno di riposare. Fabio D'Andrea, sindaco di Rigolato. Penso il dialogo è avviato positivamente, credo sia un'opera che è attesa ed è venuto il momento di realizzarla. Rigolato, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo di turismo, c'è un settore che ha visto un notevole incremento, quello dei campeggi, sentiamo da Grado. Non hanno pianto durante la pandemia ed oggi cavalcano l'onda lunga della voglia di normalità. Il mondo dei campeggi, ancor più del settore alberghiero, coglie la spinta liberatoria del momento proprio grazie ai suoi postulati filosofici. Natura, aria aperta e totale relax in autonomia ed informalità. Francesco Grigolon, camping manager a Grado Pineta. La pandemia ha fatto sviluppare un nuovo tipo di clientela. Nel periodo di pandemia era vietato l'alloggio nei posti chiusi, ma noi con il campeggio, avendo posti tutti all'aperto, ha fatto sì che molte famiglie conoscessero questa realtà. Quindi ai nuovi clienti che hanno conosciuto il campeggio durante la pandemia vanno a sommarsi i clienti abituali del campeggio, quindi la stagione 2022 è una stagione estremamente favorevole e positiva. Direi anche un 8% in più nel mese di luglio. Pur mantenendo i suoi principi autogestionali, l'offerta campeggistica si è comunque evoluta ampliando le opzioni residenziali. Il classico modo di far campeggio con attrezzatura propria, parlo di roulotte, camper e tende, negli ultimi anni si è evoluto. Noi siamo forniti di strutture fisse quali cottage, bungalow, piccoli appartamentini che fanno sì che le persone non provviste di attrezzatura possano usufruire del campeggio. Anche sui campeggi però l'incertezza nel settore energetico si fa sentire. Questo è un problema estremamente pesante, ma questo incremento di presenze ci permette di far fronte a questo gran aumento di costi che abbiamo dal punto di vista energetico, idrico e di tassazione su ogni cosa. Abbiamo fortuna di lavorare. Grado Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste riaprono oggi i musei letterari, ovvero lo Sveviano, quello dedicato a Joyce, e il petrarchesco Piccolo Mineo, tutti nella sede della Biblioteca Civica in via Madonna del Mare. Il pubblico potrà accedere dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche il pomeriggio dalle 14 alle 18. Altre informazioni sui siti istituzionali e sui social del Comune di Trieste. A Gorizia l'Ampi provinciale organizza l'incontro dal titolo Gli Arditi, storia e realtà. Si svolgerà al centro civico comunale in piazza Vittoria alle 18. Il relatore è Alberto Mauchigna dell'ufficio di presidenza dell'Associazione Partigiani. E ora gli spettacoli, penultimo appuntamento con Grado Festival, ospiti d'autore. Questa sera alla Diga Nazario Sauro, uno dei gruppi italiani più gettonati degli ultimi 25 anni. Se fosse facile fare così, poterti dire già quello che so. La musica dei Subsonica, a due passi dal mare, esattamente 20 anni dopo Amore Matico, uno dei dischi più amati dai fan, la band torinese riporta quei suoni e quelle atmosfere elettroniche che hanno contraddistinto i primi anni 2000. Una sorta di tributo a se stessi, cercando di replicare il fortunato tour di Microchip Emozionale album precedente è risuonato dal vivo la scorsa primavera nei club di Mezza Italia. Il concerto inizia alle 21.30, biglietti in vendita dalle 19 fuori dal Palazzo del Comune. Dopo i Subsonica, Grado Festival Ospiti d'Autore proseguirà con l'ultimo appuntamento, sabato gran finale con Max Gazzè. Un concerto irrinunciabile per gli amanti del jazz, quello in programma a Udine alle 21.30 in Piazza Libertà, a ingresso libero. I protagonisti sono Paolo Fresu e il Trio Sans, formato da Bernard Schüller al pianoforte, Omar Rodriguez Calvo al basso e Tobias Schulte alla batteria. La formazione tedesco-cubana e il grande trombettista hanno inciso insieme lo scorso anno nello studio Arte Suono di Tavagnacco l'album intitolato Giulia, che sarà al centro della serata come una sorta di omaggio alla terra in cui è nato questo lavoro. L'appuntamento è organizzato da More Than Jazz. E a Trieste il mese di agosto si apre con un nuovo appuntamento di forte richiamo al Castello di San Giusto, quello con il crooner Mario Biondi, la sua voce inconfondibile e un programma senza possibilità di fraintendimento, tutto innervato dall'ultimo album Romantic. Mario Biondi apre di fatto la seconda parte di un'agenda, quella che va sotto l'etichetta unica di Trieste Estate, gestita dal comune, ma alla quale contribuiscono varie anime musicali. Il direttore artistico del cartellone è Gabriele Centis, al quale chiediamo cosa ci riservano i prossimi giorni. Il Gala del Musical il giorno 3 agosto, il Soft Machine il 6 agosto, il concerto all'alba, vi ricordo il concerto all'alba su Mulla Audace che torna dopo due anni di Covid il giorno 7, domenica 7, l'Orchestra Busoni l'8 con un concerto dedicato alla musica del cinema, e naturalmente Josh Stone il 9 agosto, Matt Bianco il 13, insomma tutta una serie di appuntamenti molto stimolanti, interessanti. Avete dovuto confrontarvi con una stagione musicalmente molto ricca ovunque in regione. Com'è stato costruire un calendario in questo contesto? Grande offerta anche da parte dalla parte artistica e grande entusiasmo da parte del pubblico a partecipare. Vediamo che tutti questi concerti sono stati molto ben frequentati proprio per questo entusiasmo di ritrovarsi e di condividere di nuovo la musica dal vivo dopo tanta assenza e tante difficoltà. Dal punto di vista della fruizione, cos'è cambiato anche per quanto riguarda gli spazi che sono stati dedicati alla musica? Questo isolamento ha portato anche un ulteriore utilizzo della rete e una spersonalizzazione un po' dell'ascolto della musica. Finalmente anche i luoghi sono importanti. Noi abbiamo la possibilità di avere la suggestione del Castello di San Giusto e anche quello del Museo Sartorio, dove tra l'altro si fanno anche altrettante attività concertistiche e anche di teatro, che sono delle cornici veramente particolari, e vedo che il pubblico ha anche il piacere di ritrovarsi in questi spazi oltre che di incontrarsi fisicamente, per cui veramente una boccata di ossigeno dopo tutto questo periodo così pesante. Il Festival Cardiarmonie fa tappa a Ludaria di Rigolato alle 20.30 nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, di scena il Clavio il Trio con un programma insolito che partirà da Poulenc per passare a Nino Rota, al suo allievo Nicola Scardicchio e a Piazzolla delle Stagioni Portegne. Parte da Trieste il tour della Etnohisteria World Orchestra, un progetto internazionale che da 20 anni riunisce un centinaio di musicisti poliedrici da tutto il mondo. Dopo una settimana di studio e creazione collettiva tra i vigneti dell'Istria slovena, l'orchestra suonerà alle 20.30 a Barcola, nel cortile dell'Associazione Slovena di via Bonafata. Nel programma una serie di brani musicali multietnici, dai Balcani all'America Latina, alla Scandinavia, suonati senza partiture. Da domani la tournée in Slovenia. E sempre in Slovenia, al castello di Kronberg a Nova Gorica, è di scena stasera il chitarrista Mdu Mokhtar, artista del Niger, che mescola la tradizione dei Tuareg con il rock e il blues. Appuntamento alle 21, rientra nel programma del festival trasfrontaliero Musiche dal Mondo. Sono le 7.37, apriamo la pagina dello sport, canottaggio, un oro e un bronzo nella giornata conclusiva delle gare Under 19 hanno coronato la partecipazione degli atleti regionali ai campionati mondiali di Varese. Benedetta Pachor, 18enne triestina del Saturni, ha conquistato il titolo iridato nel 4 senza, mentre il friulano Marco Dri, anch'egli 18enne, portacolori della canoa San Giorgio, ha ottenuto il terzo posto nel doppio insieme all'ariano Marco Selva. 19 le medaglie per gli azzurri tra Under 23 e Juniores, per un bilancio che facciamo tracciare a Spartaco Barbo, uno dei due allenatori capo della squadra italiana e tecnico del Saturnia. Direi un buon bilancio. bilancio, è stato un mondiale molto affollato perché è un mondialone, due categorie under 19 e under 23 hanno portato più di 1500 giocatori sul lago della Schilana di Varese, una presenza di oltre 6000 persone, tutte le giornate di gara hanno visto un'affluenza di pubblico importantissimo e il bilancio per la spedizione italiana direi più che positivo. Gli under 23 abbiamo vinto il medagliere, ma anche gli under 19 italiani si sono comportati sia nel settore maschile e nel settore femminile, che è ancora una volta in fortissima crescita. Per quanto riguarda i colori regionali, chiudiamo con due medaglie d'oro e un bronzo. Sono risultati che erano in qualche modo preventivati o vanno al di là delle attese? Se vogliamo la medaglia del 200 di Samantha Premer e Mary Zerboni, sapevamo che avevamo un equipaggio forte ed si sono conformate, passando addirittura il loro record mondiale di ben 10 secondi. L'oro di Benedetta Pacor è stata, non dico inaspettata, perché sapevamo noi tecnici che la barca era veloce, dipendeva solamente quanto fossero più veloci o meno veloci di noi gli avversari, e il bronzo di Marco Tri è veramente un bronzo guadagnato, sono stati bravissimi i due ragazzi a lottare fino alla fine, a crederci fino alla fine, e ha ragione e merito del lavoro fatto in regione, che è un ottimo lavoro nel canottaggio da tanti anni delle società regionali. Si lavora dal punto di vista di un allenatore come lei, che è tecnico federale, uno dei due responsabili della squadra nazionale, anche naturalmente in prospettiva olimpica, oppure siamo ancora troppo lontani da quell'appuntamento? Ma il compito affidatomi dal presidente Bagnale e dal direttore tecnico Franco Cattaneo è sempre quello di insegnare la metodologia italiana, la tecnica italiana, e metterci dentro la mentalità che per arrivare a fare l'atleta di livello olimpico bisogna investire del tempo, energie e avere pazienza giorno dopo giorno, step by step, e questo credo che stiamo riuscendo a farlo, perché non dimentichiamo che abbiamo avuto 5 ragazze del Saturnia più Alice Gnatta in squadra under 23 e qualcuno di loro potrebbe essere che prima o dopo la chiamata arrivi. Ora il calcio: Udinese ormai in vista del via alla stagione vera. Venerdì in Coppa Italia si giocherà. Già per vincere, l'avversaria dei 32esimi di finale sarà la Feral Pisalò, che a sorpresa ha eliminato il Südtirol, neopromosso in Serie B. La partita del Friuli comincerà alle 18. I friulani saranno tra i primi a scendere in campo. Le altre partite di venerdì sono Cagliari-Perugia, Lecce-Cittadelle e Sampdoria-Regina. Oggi la squadra di Sottil torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo seguito alla doppia sconfitta con il Chelsea. Becao e Arslan lavorano a parte con l'obiettivo di un pieno recupero nell'arco di pochi giorni. Il calcio, la Serie C. Con la sconfitta per 0-1 nell'amichevole a porte chiuse contro il Foggia, il Pordenone ha concluso la prima parte della preparazione estiva. Da domani sarà il De Marchi per la seconda fase. In arrivo l'attaccante Palombi, ex promessa delle giovanili del Lazio, proveniente dall'Alessandria. Il nuovo mister di Ramarri, Domenico Di Carlo, è soddisfatto del lavoro svolto la scorsa settimana. Ma ho trovato un gruppo che è disponibile al lavoro, disponibile al sacrificio, disponibile a far sì che ci crea un bel clima di lavoro. Chiaro che abbiamo bisogno di lavorare sul campo perché c'è ancora tanto da lavorare, ma i presupposti, la base c'è, e questo è un segnale forte che voglio dare a tutti, perché il Pordenone è una squadra che ha quelle qualità necessarie per poter essere competitivo in questo campionato. Martedì rientriamo, andiamo nella seconda fase della preparazione, quindi andremo a fare ancora un'altra settimana di carico di lavoro per poi cominciare a scendere e arrivare per il 21 e per il 28 agosto nel migliore dei modi. Nella stessa categoria anche la Triestina ha ultimato il ritiro in regione. A Ravascletto, la squadra labardata, che da un mese ha una nuova proprietà, ha dovuto ricostruire la squadra completamente da zero. Sono stati acquistati tanti giovani provenienti dai settori giovanili delle squadre di Serie A, più qualche calciatore di categoria. Nelle prossime ore sarà ufficializzato l'arrivo dalla Lazio dell'ala Lombardi. Abbiamo fatto il punto della situazione con il direttore dell'area sportiva, Giancarlo Romairone. Ma è stato assolutamente dinamico, però noi abbiamo tante cose da fare, cerchiamo di accorciare i tempi, abbiamo cercato di aggredire un po' varie situazioni seguendo la strategia del nostro presidente Simone Giacomini, che ha necessariamente optato per una impronta ben marcata. Questa strategia prevede tanti giovani ma anche giocatori di categoria o addirittura di categoria superiore. Quali sono i colpi che secondo lei potranno dare di più nell'immediato? Siamo partiti coinvolgendo giocatori giovani di assoluto livello, perché se pensiamo di dover costruire una Triestina che sia immagine e somiglianza di una proprietà giovane e dinamica con voglia di arrivare, è chiaro che poi la squadra dovrà essere completata con giocatori di esperienza, proprio perché il giusto mix possa valorizzare tutti i giocatori e diventare una squadra temibile il più possibile. E soddisfatto del lavoro svolto finora? In questo momento sì, perché non mi sento solo, ho una squadra di lavoro di un certo livello e soprattutto sono appoggiato da una proprietà che ha voglia di costruire nel tempo qualcosa di importante. Cosa manca in questo momento da qui alla fine del mercato per rendere la Triestina competitiva? Mancano ancora diverse cose, dobbiamo certamente portare dei giocatori di esperienza, almeno 4-5, dobbiamo fare qualche uscita e dobbiamo diventare il prima possibile una squadra, perché poi i movimenti saranno stati tanti alla fine e di conseguenza poi la difficoltà sarà diventare squadra prima possibile, però lavoreremo uniti e compatti perché questo avvenga. Una curiosità, avete preso il figlio di un presidente di un'altra squadra, della stessa regione, della stessa categoria, nello stesso girone, è un unicum. Come è nato l'affare Lovisa? Ma è nato perché è un giovane che è diventato di nostra proprietà e di conseguenza può diventare patrimonio, un giocatore interessante, ha buone prospettive, era cresciuto bene, si era un po' perso e poi è nato per un rapporto proprio in una situazione di mercato che prevedeva altre cose, è stata interessante anche portare a casa questo ragazzo che negli anni siamo convinti che possa dire la sua. Il tennis, Jannik Sinner trionfa Umago dominando in rimonta il talento spagnolo Alcaraz, perso il primo set al tie break, l'azzurro quasi ventunenne ha saputo annullare 5 palle break all'inizio del secondo, poi ha cambiato marcia finendo con travolgere lateralmente lo spagnolo con un doppio 6-1. Per Sinner la seconda vittoria consecutiva contro Alcaraz, neo numero 4 del mondo dopo il successo di Wimbledon. In mattinata sul centrale del campo croato Fognini e Bolelli avevano vinto il doppio. Tuffi, l'ennesimo podio nazionale per Noemi Batchi, atleta dell'esercito e della Triestina nuoto. Agli assoluti di Bolzano, la labardata ha ottenuto l'argento nella gara dalla piattaforma alle spalle della 22enne Sara Di Maria. Obiettivo stagionale per Batchi è un piazzamento di rilievo agli europei di Roma al via fra 2 settimane. 3 riserve naturali, 18 km a nuoto per collegarle con un'impresa sportiva dal forte messaggio ambientalista. Ecco cosa ha spinto una 50ina di atleti a questa sorta di maratona nelle acque del Golfo tra Punta Barene, Staranzano e Miramare. Si sente in forma? Proviamo, vediamo. Il mare è bello, la giornata è bellissima, ci sono tanti amici. Vedremo di arrivare fino in fondo. 18 chilometri a nuoto attraversando 3 riserve naturali. È l'avventura di 53 atleti agonisti, anche medagliati e altri che hanno voluto provare la traversata del Golfo di Trieste per puro divertimento. La partenza al largo della Marina Punto Barena a Staranzano. Livia Clapiz, organizzatrice. Lo spirito è quello di nuotare per divertirsi. Lei nuota? Sì. Come andrà? Ultima, io e il mio equipaggio siamo già ultimi, è già scritto, ma va bene così, siamo qua per divertirci, non dobbiamo vincere niente personalmente. Io vengo da Genova e... A Trieste per la gara? A Trieste per la gara, convinti da lui che è originario del luogo. Cosa significa per un triestino partecipare a questa gara? Nuotare nelle nostre acque, è sempre bello nuotare. Scortati dalla Guardia Costiera, dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, gli atleti, 2 singoli e a staffetta, hanno cominciato a nuotare insieme nelle acque che formano 3 riserve naturali, la foce dell'Isonzo, le falesie di Duino e Miramare. David Strussiat di Eco Park. La traversata nuoto rientra in un progetto più ampio del Festival Eson, dove la natura incontra, oltre alla cultura, anche lo sport oggi, per mostrare la qualità dell'ambiente e degli spazi che abbiamo qui. L'arrivo dei primi a Grignano dopo 4 ore e 3 minuti, tanta la stanchezza ma tanta la soddisfazione degli atleti, ma anche degli organizzatori. Lei fa la gara? No, io guido soltanto la barca. Come mai non fa la gara? Meno faticoso, un po' più rilassante, c'è il sole, una bella vista. Staranzano, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora il ciclismo con la Gran Fondo Città di Pordenone, che ha visto una partecipazione ampia per un'edizione di ottimo livello tecnico. Circa 250 i partenti alla 15ª edizione della Gran Fondo dei Templari, trofeo Città di Pordenone, un evento ciclistico dedicato alle categorie amatoriali di livello internazionale, valido come prova del campionato nazionale Gran Fondo e Medio Fondo e del circuito internazionale Alpe Adria 2022. 18 i comuni toccati, Giulia Pecchialan, comitato organizzatore. Ritorniamo ai due percorsi, cosa che l'anno scorso per l'emergenza non avevamo potuto svolgere, e il percorso completamente rinnovato. Non ci sono salite note, quelle tipiche della nostra provincia, ma altri come Pielungo, Clauzetto, proprio per dare qualcosa di nuovo. Diversi nomi di spicco che hanno preso parte all'evento, come il vincitore della Maratona delle Dolomiti Tommaso Elettrico e il professionista triestino Federico Pozzetto, già vincitore di 4 edizioni di questa gara. A sorpresa a vincere la Gran Fondo in volata è stato l'olandese Johnny Ugerland. A good friend of me, un suo caro amico Diego che abita a Gemona gli ha consigliato di venire a provare la Gran Fondo dei Templari. Ha guardato la traccia GPX che abbiamo caricato e ha detto che poteva essere una buona corsa per lui. Seguito da Federico Pozzetto. Pensavo di farcela, ero lì vicino all'arrivo, poi ho visto Ogran che mi è spuntato all'improvviso e è stato bravo lui. Quarto classificato Tommaso Elettrico. Ho provato ad anticipare all'ultimo chilometro, mi hanno chiuso in prossimità dell'arrivo e in volata ormai avevo speso tutte le energie. Ci ho provato, volevo onorare fino alla fine questa manifestazione. Prima fra le donne, Anastasia Mazzolin. Il percorso non era tanto impegnativo, era più pianeggiante, poca salita, quindi non adatto alle mie qualità da scalatrice, però comunque nonostante ciò me la sono cavata bene. Abbiamo tenuto 34 di media con il secondo gruppo. Pordenone, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo ai quotidiani che possiamo trovare in edicola questo lunedì 1 agosto. Il Messaggero Veneto apre con l'istruzione: già assunti 1.800 docenti per far ripartire la scuola, completati i concorsi, mancano ancora insegnanti di sostegno e direttori dei servizi amministrativi. Sempre dalla scuola, 6 milioni contro l'abbandono scolastico assegnati a 41 studenti degli istituti, a 41 istituti della regione. Poi la maturità facile, tutti i promossi in Friuli Venezia Giulia, poche le nodi. Foto notizia sulla cronaca: mette in fuga 4 ladri entrati in casa della nonna. La fascia della cronaca: sempre salvato da un cane, un anziano disperso nei monti di Forniavoltri. Le vacanze: il mare di Lignano cambia colore a causa delle alghe. Nelle pagine locali: concorsi disertati e trasferimenti, a garantire i servizi dirigenti pensionati. A Palazzo d'Aronco in 5 continuano a lavorare gratis per l'amministrazione. Lo sport: l'Udinese fa i conti, cedere Deulofeu può essere rischioso. Lo spagnolo e Molina la passata stagione hanno totalizzato 20 gol e 10 assist. Partito già l'argentino, sarebbe problematico trovare un sostituto all'altezza del numero 10. Ora il piccolo che ritrae in prima pagina i protagonisti della lotta agli incendi dei giorni scorsi. Il grazie ai piloti dei Canadair. Gli equipaggi, racconta il quotidiano, alla fine dell'emergenza si sono ritrovati in un locale di Gradisca dove hanno potuto toccare con mano l'affetto di clienti e titolari. Sull'edizione di Trieste, titolo principale è dedicato ai temi amministrativi che aprono anche la cronaca cittadina. Il comune assume 30 vigili urbani, candidature al via. Le domande vanno presentate entro il 22 agosto, stipendio iniziale di 23.000 euro. Sempre in evidenza anche l'avvertenza Varzila. Il piccolo propone un'intervista con Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison, che dice: l'Italia si difenda, ma certo colpisce l'intransigenza finlandese nel dialogo con le nostre istituzioni. Nelle pagine della Scienza si parla del Centro Nazionale di Supercalcolo che nasce a Trieste grazie all'accordo tra Università, Sissa e OGS. E poi spazio alla campagna per gli alberi monumentali cittadini lanciata da Trieste Solidale. Due pagine nel cuore del giornale. L'edizione di Gorizia e Monfalcone titola sui fondi della manovra regionale di assestamento. Più di 6 milioni per scuole, piscine e impianti sportivi. Beneficiari sono 13 comuni. Il Gazzettino invece dedica la prima pagina dell'edizione friulana all'emergenza. Siccità, basta acqua e mais. basta acqua a mais e soia. Il provvedimento in settimana per cercare di salvare i frutteti, falde prosciugate, i bacini sono vuoti e la pioggia dei giorni scorsi non è bastata. I danni per le vigne, soprattutto se la siccità dovesse perdurare ancora, ci saranno, ma potrebbero essere limitati. Ora inizia però il momento di maggior fabbisogno di acqua, potrebbe esserci un impatto sulla vendemmia, forse con una resa più bassa. Il quotidiano dà spazio anche alla cronaca: schianto frontale fra due auto, muore a 55 anni, frontale violentissimo tra l'auto su cui viaggiava un'altra macchina che non gli ha lasciato scampo, è morto così ieri sera Raffaele Broccolo, 55 anni, residente a Porcia. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20 in Viale Venezia a Fontana Fredda. Infine la scuola, nuovo ITS per il turismo, i paletti dell'assessore, lo chiede Confcommercio per formare i ragazzi che escono dalle superiori. Scettica Rosolen, voglio vedere se poi li pagano come i laureati. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. A seguire andranno in onda in replica le prime due puntate in friulano di Lis Predicis dai Muini, le prediche di un sacrestano immaginario dell'altrettanto immaginario paese di Gargagnà di Sopra. Alle 11.20 andrà in onda la radio che pedala, che oggi attraverserà due confini lungo la celebre ciclabile della Parenzana. Alle 11.55 l'appuntamento con fotoradiografie, la puntata di oggi dedicata ai film che raccontano il difficile rapporto tra i fotografi di successo e i loro figli. E inoltre una visita alla mostra antologica dedicata al lavoro quarantennale di Roberto Kusterle. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Andrea Saule e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano ed Eugenio Giuffrida, collaborato in redazione Daniela Sossi. 7.54 in punto, vi lasciamo le informazioni su traffico e viabilità regionali, ci risentiamo più tardi per la prossima edizione, grazie e buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.